Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 26 aprile, buongiorno a tutte e tutti e bentornati a Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma talk che parla tra il carcere e la cittadinanza, e do il buongiorno ai miei ospiti in studio. Ci sono Antonella Cortese, la mia collega di redazione, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno a te Ignazio. Buongiorno a tutti coloro che ci seguono su Fugico, su Lepida e su Teletricolore. Bravo, bravissimo, esatto, perché siamo su Lepida TV appunto dal 19 aprile, siamo molto contenti di questa prosecuzione anche su questo canale che permette a più persone di ascoltarci. E allora, siccome è il 26 di aprile e ieri è stato il 25, ci tengo a ricordare la festa della Liberazione Nazionale il 25 aprile, perché le parole libertà e liberazione sono certo care a tutti i cittadini italiani e anche ai cittadini che ci ascoltano in particolare. In una situazione dove la libertà manca, quindi si subisce la privazione della libertà personale. E ieri è stato per l'appunto il 25 di aprile ed è la festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre ogni anno per festeggiare, ricordare la liberazione dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Ed è una festa che è dedicata anche a tutti coloro che hanno permesso alla nazione di liberarsi dalla dittatura. È una festività che in Italia nasce su proposta del Presidente del Consiglio, allora Alcide De Gasperi, al Principe Umberto II, e fu scelta la data del 25 aprile, che è la data dell'insurrezione milanese, da cui poi partì la liberazione delle maggiori città italiane. La resistenza italiana, lo ricordiamo, fu un movimento veramente edificante, fondamentale nella storia della nostra Repubblica, perché condusse la nostra nazione poi a unirsi in forma democratica sotto l'egida della nostra Costituzione, che a noi piace tantissimo ricordare per gli articoli fondamentali proprio sulla dignità umana che sono contenuti all'interno. Ma è una festa che viene ricordata anche in altri paesi del mondo. Ricordiamo per esempio in Australia, il 25 aprile è il giorno in cui si festeggia l'Anzac Day, cioè il giorno commemorativo della memoria dei soldati delle forze armate di Australia e Nuova Zelanda morti in tutte le guerre. E poi anche in Portogallo, il 25 aprile, viene festeggiata la festa della libertà e la fine della dittatura nel 1974 fondata da Antonio de Oliveira Salazar. E quindi c'è anche il ricordo della rivoluzione dei garofani dal gesto di una fioraia che durante la sommossa decise di offrire i garofani ai soldati da inserire nelle canne dei fucili. Ma ora do la parola a te, Antonella, perché ci porti in Camerun. Sì, infatti, buongiorno a tutti di nuovo e oggi andiamo in Camerun. E il Camerun è un paese situato nella parte occidentale dell'Africa, appena sotto la linea dell'Equatore, ed è una formidabile fucina di pittori, scultori di grande talento e di grande creatività. E le loro opere spesso sono di denuncia sociale e stanno conquistando una crescente attenzione internazionale in questo periodo. I loro atelier e le loro scuole di formazione traggono ispirazione dalle città in cui vivono, principalmente Douala e Yaoundé. E Douala è la capitale economica del Camerun, una metropoli caotica e forse proprio per questo non particolarmente attraente, però quando si squarcia un po' il velo del primo impatto, ecco che la città ti sorprende e ti cattura grazie proprio al suo cuore artistico, che pulsa in ogni suo angolo. Infatti nel quartiere di Nkomondo lavora un artista che si chiama David Nkot, che è un artista, diciamo, molto poliedrico, e uno dei suoi progetti è una serie di dipinti che parlano di migrazioni e di diritti dei lavoratori. E David è anche piuttosto famoso, in effetti, perché ha già esposto alla Jack Bell Gallery di Londra. E, come vi dicevo, Douala è una città importante dal punto di vista artistico, perché è disseminata di sculture, installazioni, dipinti, posizionati un po' dappertutto in città, negli incroci, nelle piazze. E l'opera più importante e imponente è La Nouvelle Liberté di Joseph-Francis Soumeigner, che è un pittore e uno scultore, uno dei padri dell'arte locale, che ha fatto una monumentale scultura di 12 metri, in cui ha espresso un po' le potenzialità del riciclo. Proprio del riciclo, sì, materiali di scarto che ha utilizzato per costruire questa grande struttura. mezzi meccanici, materiali proprio di risulta, e le ha create nel suo laboratorio di Yaoundé. Il cuore artistico di Douala intanto è la Douala Art, dove si riuniscono gli artisti, e ce n'è uno che si chiama Wang Kokubar, le cui originali installazioni sono diventate famose un po' in tutto il mondo, perché rappresenta immaginarie città africane proiettate nel futuro. E vi voglio leggere quello che dice: l'Africa è un continente ricco, ma è anche molto emarginato. Noi siamo figli di questa terra e abbiamo la responsabilità di restituire dignità e bellezza all'immagine di questo continente, che saprà stupire più delle mie opere. Per mantenersi, Wanko ha realizzato numerose campagne pubblicitarie, disegnando direttamente sui taxi, e infatti questa è l'attività che l'ha reso popolare in Camerun. Voglio parlare però anche di una donna, una delle poche donne che non fa solo la gallerista, ma anche la produttrice d'arte. Si chiama Gaga e ha 46 anni e racconta anche un po' della difficoltà per una donna di diventare un'artista che produce, proprio perché la gente, la famiglia, fa fatica a comprendere questo mestiere per una donna. La mentalità tradizionale relega infatti il ruolo della donna a quello di madre e di moglie principalmente, che deve accudire la casa, i figli e la famiglia. E intanto, rimanendo sempre in Camerun, vorrei presentarvi anche un brano, Caterina. Allora lancio subito il brano, che è quello di Charlotte Dipanda, cantante afropop nata a Yaoundé, che ci canta El Napavu. Adiate longue, la bina usa bua mounyenge, vignola sibi, lo beni mumusima, si dimiana nika inu wanyambi na bele mo. Bate ya mo e tube, ala bet en bas, il a net tomba. Aye, ala bet en bas, il a net tomba. Oué, a maman mi yomba, oué, maman n'a pas vu. Non, non, non, maman ne l'a pas vu. Non, non, non, hé, hé, elle ne l'a pas vu. Non, et oui, un emballé, maman. Mena loben, matoi lo tate so senga, mwendi mu mwawe, matete na mulema, usiti be ananika, eno wanyambe na bele mo, tumi mbumi tumbande, bate ya mo etube, ala bet en bas, si la ne tomba, aye, ala bet en bas, si la ne tomba, we, a mama mi yomba, we, mama n'a pas vu, non. Eccoci, bentornati sulle note di Charlotte Dipanda, questo brano dall'Africa che ci giunge oggi a Edu Radio, e do la parola al nostro Ignazio De Francesco, che la scorsa settimana ha iniziato una bellissima rubrica viaggi, e a un certo punto questi viaggi, Ignazio, ti hanno condotto anche in carcere. Ce ne vuoi parlare? Proprio così, nel senso che dopo tanti anni, 12 anni circa di peregrinaggio da Gerusalemme, la Palestina, la Siria, il Libano, la Giordania, l'Egitto, a un certo punto sono ritornato in Italia e ho trovato un paese cambiato perché il flusso migratorio si era fatto significativo. E per una serie di circostanze, un invito fattomi da un volontario carcerario, sono andato a lavorare come volontario alla DOTA, al carcere, alla casa circondariale di Bologna, perché mi dicevano: guarda, nessuno quasi qua sa parlare l'arabo, ci sono tanti detenuti di lingua, tante persone detenute di lingua araba, vieni un po' a tenere compagnia. E così ho fatto, ed è stata per me l'occasione di scoprire una diversa dimensione del carcere, che lo diciamo sempre, lo ripetiamo, è un quartiere della nostra città, un quartiere particolare. Ci sono delle tante persone che sono state fermate per comportamenti, per degli sbagli che hanno fatto nella loro vita, per la violazione delle leggi, ma non solo non perdono la loro dignità come persone, ma anche sono portatori di tante culture. E quindi il carcere esprime in un modo ancora più forte che la società, il resto della città, questo intreccio tra mondi nei quali avevo viaggiato e che ho riscoperto in Via del Gomito. Ignazio, ti farei una domanda, ma dopo tutti questi anni di volontariato, qual è la tua impressione sul carcere? Io direi questo: il carcere è una parte di noi, non solo è un quartiere della nostra città, ma è anche un quartiere del nostro cuore, un quartiere della nostra psiche. In carcere si incontrano le problematiche che sono i nodi della nostra società. Quando io incontro, per esempio, la folla di persone che paga con il carcere per il commercio di stupefacenti, incontro il nostro bisogno di sostanze eccitanti o calmanti. Noi sappiamo che il consumatore non è imprigionato, giustamente, un consumatore, quindi non viene punito per questo, ma colui che la vende viene punito per il servizio che gli fornisce. Quindi sono i problemi, i grandi problemi della nostra comunità. E poi anche il carcere è anche un'esperienza al limite. Io direi che non c'è nessuna esperienza più al limite del carcere. Certe volte penso andare su Marte, per esempio, andare sulla Luna, scalare l'Everest, ma rispetto alla vita in carcere sono ancora quasi un gioco, perché poter passare un periodo senza la libertà di movimento, di decidere quando si esce, quando si entra, e rimettersi in piedi e uscire persone più belle, più forti, più profonde di prima, è una grande scommessa. Quindi io credo che giustamente il reato deve essere punito, ma nello stesso tempo nessuna persona è un reato che cammina su delle gambe. Le persone sono sempre portatrici di un grande valore. Noi aiutiamo anche con le nostre trasmissioni a questo progetto rieducativo. Grazie Ignazio, e allora ne approfitto a metà della nostra mattinata di lanciare un brano musicale. Tutta la settimana è dedicata a un cantatore statunitense che ha viaggiato per varie carceri americane e si è esibito all'interno di esse, e lui è Johnny Cash. Il brano che lancio oggi per voi e vi dedico è Folsom Prison Blues, ed è un brano country, racconta, unisce due metafore, il treno come metafora del viaggio e la prigione. E questo brano, registrato per l'appunto nella prigione di Folsom in California nel 1968, parla di un detenuto che sente il fischio del treno fuori dalla cella e rievoca il momento in cui ha commesso il suo crimine. Ascoltiamolo. But that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. We'll be right back. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. Bentornati su Liberi Dentro, abbiamo oggi il piacere di avere su queste onde radio TV per questa rubrica in collaborazione con ASP Bologna la voce e il volto del dottor Roberto Di Caterino, da circa 13 anni comandante di polizia penitenziaria alla casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Buongiorno e benvenuto, grazie. Buongiorno, grazie a voi per l'invito, una cosa interessante, spero insomma di essere all'altezza di suscitare anche qualche curiosità e dare qualche spunto in questa trasmissione. Dottor Di Caterino, è la prima volta che un ruolo come il suo compare su questa nostra trasmissione, che si dà come obiettivo quello di parlare al carcere e alla città, indistintamente. E quindi partiamo subito, le domande abbiamo cercato di concentrarle in poche, anche se sarebbero tante, e sono, credo che siano tantissime le persone che desiderano ascoltarla sia su radio che su TV. Quindi parto io e le chiedo che cosa significa impegnarsi come agente di polizia penitenziaria nel 2021 e nel sistema penitenziario italiano. Allora, questa è una domanda molto, molto stimolante, devo essere sincero. Che cosa significa? Noi non possiamo dare una definizione insomma generale oppure unica per tutti quanti, però io credo che anche nel 2021, anzi forse a maggior ragione con alcune sfide che abbiamo raccolto in questi ultimi anni, il lavoro della polizia penitenziaria sia molto importante e consentitemi di dire molto importante anche questa vostra volontà di farci conoscere, no? Perché poi è un pochino uno degli aspetti più non delicati, cioè uno degli aspetti che comunque ci pesa più, cioè il nostro essere nascosti da queste chiamiamole quattro mura e quindi rimanere un pochino nascosti. Che cosa significa e come si inserisce nel sistema penitenziario italiano? Ecco, ripeto, io credo sia un lavoro molto delicato, molto importante. È una parte importante del sistema penale italiano, quindi non solo penitenziario, ma di tutto il percorso che poi non si conclude con il carcere, ma secondo me il percorso si conclude proprio con la fine della pena, quindi con quando la persona torna libera a tutti gli effetti, che sia il carcere piuttosto che una pena alternativa, eccetera. Quindi credo che sia veramente un ruolo molto, molto importante e insomma, su cui bisognerebbe investire paradossalmente ancora di più. Thank you. Io comandante le chiedo, per un lavoro come lei accennava, così complesso, così delicato, quali sono secondo lei le principali qualità richieste? Le qualità sono tante perché questo è un lavoro che va a mettere insieme da un lato il trattamento, dall'altro la sicurezza, dove questi due aspetti che sembrano di per sé inconciliabili tra loro, no? Perché il trattamento e la sicurezza sembrano mondi totalmente diversi, ma dal connubio di questi due aspetti dobbiamo riuscire ad arrivare al risultato finale, cioè quello del permettere alle persone, una volta uscite, di quantomeno di non ripetere gli stessi errori. E quindi serve sicuramente l'ascolto, serve la fermezza, serve la curiosità, serve la capacità di osservare nel vero senso della parola. Quindi, perché quello che dico sempre è molto importante, cercare di conoscere e imparare a conoscere le persone che abbiamo di fronte. Quindi, come potete immaginare, andiamo dalle caratteristiche più disparate tra di loro che devono confluire tutti in questa miscela che è quasi un'alchimia, insomma. Quindi ha un che di, passatemi il termine, un che di alchemico per trovare la famosa pietra filosofale. Thank you. nostro intervento termina qui. Ci rivediamo presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi di scrivere a Liberi Dentro e Duradio sui social, Instagram e Facebook, se avete domande o richieste per le prossime puntate. Ciao a tutti. Rieccovi, ben ritrovati sempre su Liberi Dentro. Abbiamo appena ascoltato la voce del dottor Roberto Di Caterino, che attualmente da 13 anni è comandante di polizia penitenziaria alla casa circondariale Dozza di Bologna. Se avete delle domande in merito, cose che non abbiamo affrontato, scrivetecele, potete scriverle a redazioneliberidentro@gmail.com oppure con la posta a Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E noi ci rivediamo domani sempre qui su Liberi Dentro. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.